Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Che è un omicidio, amico? Tutte le creature di Dio uccidono in un modo o nell'altro. Guarda le grandi foreste. Lì hai specie che uccidono altre specie, la nostra invece le uccide tutte allegramente, foreste comprese. Solo che la chiamiamo industria, non omicidio. Buongiorno e ben ritrovati, questa è Restiamo Animali, il programma animalista, antispecista e vegan che guarda al mondo di tutti gli animali, umani e non. Oggi parleremo di zoo, vi daremo aggiornamenti dall'Australia, vi parleremo di orsi e della loro difficoltà ad andare in letargo a causa del cambiamento climatico, di cucina vegana romana e di gatti. Una puntata come sempre ricca di notizie e di spunti di riflessione. Trasmissione, per chi ci segue da tempo, parla di animali da diversi punti di vista e da prospettive differenti. Lo facciamo con interviste ad esperti, a filosofi, a veterinari, parliamo di medicina, di salute, di antispecismo naturalmente e di ambiente. Come molti di voi avranno notato, nell'ultimo anno l'ambiente e il tema dei cambiamenti climatici in generale hanno fatto quasi sempre da cornice alle nostre puntate. Da sempre abbiamo un particolare riguardo verso questo tema, sia per l'origine stessa della trasmissione, sia perché è difficile parlare di soggetti al di fuori del proprio contesto e quindi distaccati dall'ambiente. Ed è così che anche oggi non possiamo che raccontarvi di una storia che ancora una volta conferma la pervasività e la drammaticità dei cambiamenti climatici. Siamo infatti in pieno inverno e questo per molti animali selvatici è il momento del riposo e del letargo. L'orso è l'animale per antonomasia che in molti associano al letargo invernale, anche se sarebbe più corretto parlare di ibernazione. L'ibernazione rappresenta un periodo particolarmente delicato per l'ecologia del plantigrado, soprattutto perché proprio all'interno delle tane le femmine partoriscono i piccoli, dove trovano calore, cibo e protezione, evitando di affrontare le rigide temperature invernali. Eppure in Ucraina, siamo nel centro di riabilitazione del Parco Nazionale Sinvir, alcuni orsi bruni non riescono a prendere sonno a causa delle temperature troppo elevate rispetto alla media stagionale. Le temperature insolitamente calde sono probabilmente la causa di questa insonnia e non permettono al metabolismo degli orsi di raggiungere questo stato di ibernazione. Considerate che in genere la maggior parte degli orsi inizia a risvegliarsi intorno a marzo-aprile, ma se le temperature minime invernali continuano ad aumentare, gli orsi potrebbero addirittura arrivare a saltare totalmente questo importante ciclo della loro vita, necessario per sopravvivere in mesi difficili come quelli invernali, appunto, dove il cibo scarseggia. Inoltre c'è un altro aspetto da tenere in considerazione a proposito di orsi e di letargo. Secondo una ricerca uscita nel 2017 sulla rivista scientifica statunitense PNAS, gli orsi non mangerebbero più il salmone a causa del caldo, che ha talmente allungato il periodo di disponibilità delle bacche di sambuco da farlo coincidere con il passaggio dei salmoni. Non sapendo cosa scegliere, gli orsi se ne restano comodamente nei boschi facendo il pieno di vitamine, ma trascurando i grassi così importanti per affrontare il letargo e allattare i cuccioli. Insomma, dura vita per gli orsi che, oltre ad essere già presi di mira dai cacciatori, ora sono ancora più in difficoltà a causa appunto del cambiamento climatico. Questa storia, come tante altre simili, dovrebbe aiutarci a riflettere su come le nostre azioni hanno ripercussioni a livello globale, ma anche a livello di ogni soggettività. Certo, è un carico pesante da portarci sulle spalle, ma non possiamo far finta di non averlo. Che cosa dicono? Che sono pazza? No, tranquillo, annuisci, perché è vero. Io sono pazza. cattiva ce n'è anche una buona. Torniamo in Italia, andiamo nel Parco Nazionale del Gran Paradiso. Il Gipeto, uno degli avvoltoi europei di maggiore dimensione dal piumaggio straordinario, è ricomparso sul versante valdostano del parco per riprodursi. Trovarlo lungo l'arco alpino è un'autentica rarità, tant'è che più di un secolo fa, nel 1913, era stato dichiarato estinto e soltanto grazie a un programma internazionale di reintroduzione è tornato recentemente a volare nei cieli sopra le Alpi. Aumentano così le speranze di sopravvivenza per questo maestoso quanto fragile uccello. Ricordiamo che il gipeto è protetto a livello internazionale e con lo stato di specie vulnerabile. È inserito infatti nella Red List dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura. Perché lo vuoi fare? Perché lui aveva ragione. Riguardo a cosa? Questo paese ha bisogno di qualcosa di più di un palazzo. Ha bisogno di speranza. E a proposito di buone notizie, sentite qui. Il primo cittadino ecologista del comune di Elsene, in Belgio, ha deciso di vietare le gite scolastiche negli zoo. Quando abbiamo letto le motivazioni non potevamo che essere entusiasti. Secondo il sindaco, infatti, gli animali selvatici non dovrebbero essere rinchiusi in gabbie e per questo le visite negli zoo non hanno nulla di pedagogico. Pensiamo che nelle gite, ha dichiarato il sindaco ecologista dei Verdi, il lato educativo e quello della coerenza in relazione a tutta una serie di principi dovrebbero essere importanti e non si possono privilegiare iniziative che sono contrarie al benessere animale. Insomma, musica per le nostre orecchie, un segnale davvero forte che sì, ci fa intravedere forse qualche segnale nella giusta direzione. My heart here in my hands. Now I got my heart here in my hands now. Now I've been searching for my. Torniamo in Australia per darvi alcuni aggiornamenti. I vigili del fuoco australiani hanno dichiarato di aver finalmente messo sotto controllo l'incendio di maggiori dimensioni, quello dei Gosper's Mountain, alla periferia di Sydney, e intanto si attende la pioggia che dovrebbe finalmente dare tregua ai boschi. Il fuoco, pensate, avrebbe bruciato un'area di parco nazionale 3 volte più grande dell'area metropolitana di Londra, innescando diversi focolai collaterali che hanno bruciato oltre 800.000 ettari. E mentre l'Australia continua a bruciare, una buona notizia possiamo darla finalmente per quanto riguarda i canguri. Versace ha annunciato che non utilizzerà più la loro pelle per le proprie collezioni. L'AV, la Lega Antivivisezione, accoglie con soddisfazione l'annuncio di Versace in risposta alla campagna Salva Canguri. Si legge in una nota pubblicata sul sito della LAV: un atto di responsabilità e di civiltà è un gesto importante, oggi più che mai. Gli incendi che stanno devastando l'Australia, continua la nota, si sommano alle stragi della caccia con conseguenze drammatiche per le popolazioni di canguri. Murray, un piccolo favore. Sì? Quando mi farai entrare, mi annunceresti come Joker? That's life. That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June. I said that's life. And as funny as it may seem, some people get their kicks stomping on a dream. but I don't let it get me down. 'Cause this fine old world, it keeps spinning around. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing. Each time I find myself flat on my face, I pick myself up and get back in the race. That's life. That's life. I tell you, I can't deny it. I thought of quitting, baby, but my heart just ain't gonna buy it. And if I didn't think it was worth one single try. Ormai è noto come sia sempre più diffusa la scelta alimentare vegan. Le opzioni prive di derivati animali sono sempre più frequenti anche nei ristoranti tradizionali, ma soprattutto lo dimostra la nascita di ristoranti e trattorie cruelty free. La rivoluzione può dunque nascere dal piatto? Forse sì. Sentiamo a questo proposito Valentina, fondatrice del Romeo Cat Bistro, ristorante romano e totalmente vegan. Uccidere è peccato. Beh, dipende da chi uccidi. Ma non funziona così. Se è peccato, è peccato. Mi trovo al Romeo Bistro a Roma e sto parlando con Valentina, che è la fondatrice di questo progetto, di questo locale, di questo nuovo concetto. Si tratta di un bistro, di un ristorante, dove ci sono dei gatti che sono residenti. Che sono i padroni di casa. Che sono i padroni di casa. Sì. Questo concetto, forse già noto in Giappone, qui è una novità. E che difficoltà avete avuto a fare questa proposta? Poi entriamo più, diciamo, nel menù. Nessuna difficoltà, nel senso che sia a livello di apertura non c'è stato nessun problema, perché nessuno conosceva questa cosa e si sono trovati di fronte a un si può fare, boh. Quindi hanno cercato di farmi capire quello che cosa non potevo fare, quindi ovviamente l'ingresso dei gatti in cucina, nei magazzini, però per il resto è stato tutto facile. I romani l'hanno presa con entusiasmo dal primo giorno, quindi si sono avvicinati senza paura, anzi con entusiasmo dall'inizio, e hanno superato la paura appunto di provare un ristorante diverso dal solito. A chi è dedicato questo ristorante? Che tipo di cucina propone? È dedicato agli animali perché è un ristorante completamente vegano da sempre e nasce appunto con i gatti, non per i gatti. Quindi tramite i gatti le persone non hanno avuto paura di fare questo cambio menù. Allora, affascinati dall'idea di un gatto in un ristorante, provano una cucina che spesso spaventa, spesso viene giudicata non buona. E quindi tramite questo abbiamo fatto felici delle persone che non avrebbero mai pensato di poter mangiare bene così, senza nulla di origine animale. Si amano gli animali, si amano i gatti, e però si mangiano gli animali. Perché gli animali purtroppo sono ancora cani e gatti e conigli forse, però per il resto non c'è la connessione logica. Tanta gente che veniva qua, che è venuta qua da onnivora, oggi è vegana. Davvero? Quindi siamo riusciti davvero a far nascere dei fiori in posti dove già era fertile il terreno. Però con l'esempio, l'unico, qua non ci sono proselitismi, non c'è scritto da nessuna parte che è vegano, quindi facendo vedere che i vegani sono persone normali, e come in tutte le cose c'è l'estremo e c'è la persona invece normale, e hanno detto si può fare, qualcuno l'ha fatto poi davvero. Premetto che la cucina è squisita, ma è capitato che qualcuno a un certo punto notasse che non c'era la possibilità di ordinare la carne e chiedesse? Beh, no, lo sanno quando vengono qui che è vegano, però pensano tutti che sia vegetariano perché è talmente particolare, anche nelle creme, la ricotta di mandorle, i dolci, che tante volte su TripAdvisor mi scrivono un ottimo ristorante vegetariano, quindi rimangono stupiti quando non c'è proprio niente di origine animale, né le uova, né il latte, quindi non usiamo nulla. come avete fatto a trovare degli chef, a realizzare dei piatti in maniera così raffinata? È stato difficile? Allora, ne sono passati tanti di chef, almeno 4-5, tutti molto bravi. Abbiamo sempre avuto un'alta cucina vegana, non abbiamo mai fatto le rivisitazioni della carbonara, senza nulla togliere, ma non è quello che volevo far conoscere. I miei chef sono tutti vegani, quindi quando conosci la materia perché la utilizzi nella tua vita e quindi c'è dietro la passione un forte credo per quello che fai, è difficile che non ci sia l'entusiasmo, non ci sia la fantasia dietro. No, sono straordinari, bravi, c'è tanto studio. Io dico sempre che gli chef onnivori dovrebbero venire nei ristoranti vegani perché scoprirebbero delle cose che non hanno proprio idea di cosa. Infatti ogni volta che vado a cena fuori mi fanno la pasta al pomodoro, i carciofi, i funghi, però insomma le verdure grigliate, la tristezza, no, buono, però insomma me lo mangio a casa, quindi venendo da noi si scoprono dei sapori che potrebbero riformulare nella veramente cucina. Complimenti eccezionali, e soprattutto grazie. Il dolce, devo dire, mi ha lasciato senza parole. Io dico sempre parole. Che siamo più famosi per i dolci che per i gatti, il che è tutto dire. E tu perché sei diventata vegana? Io sono diventata vegana da un percorso yoga, quindi comunque quando poi ho cominciato a vedere cosa avevo nel piatto, quindi poi il biologico, e a un certo punto ho visto delle cose che mi hanno fatto aprire gli occhi e non volevo più essere parte di questo dolore e ho detto basta, quindi è stato proprio semplice, mai stata vegetariana, ho fatto proprio il passaggio onnivora vegana e sono una vegana che dice che la carne è buona, nel senso io non è che dico che non è buona, però non mi interessa cosa c'è dietro a quel dolore, non può essere giustificato dal gusto, quindi quando mi dicono ah vabbè io mi piace troppo, lo so, cioè chi dice che la mozzarella non è buona, però quello che c'è dietro non esiste, quindi no. Certo, da quanti anni è aperto Romeo? Romeo giovedì prossimo fa 5 anni, quindi è tanto. Un lustro. È abbastanza, sì, sembrano di più ma sono 5 anni. Complimenti. Grazie. E come sta andando? Bene, bene, abbiamo appena fatto dei lavori di ampliamento perché la richiesta era tanta e quindi ci siamo ingranditi, fortunatamente tra i turisti e i romani vengono in tantissimi. Ultima domanda sui protagonisti, diciamo, di questo locale, cioè i gatti, i Romei. Sì, siamo i Romei. Da dove arrivano? Loro arrivano tutti quanti da una onlus che si chiama Luna di Formaggio, che è un'associazione di Montelibretti. Questa ragazza che ha una marea di cani aveva questi 6 gatti piccoli. Io sono andata lì, li ho presi tutti insieme e da quel giorno sono i padroni di casa. Ah, quindi a questo punto sono tuoi? Sì, sono miei, del locale, non sono adottabili. No. Pensavo che fosse una vetrina però chi mi chiede, ovviamente io ho tanti gattini di riferimento, però loro sono i miei gatti. Sono i tuoi gatti. Sì, sì. Sono i tuoi gatti. Sì. Bene, allora lunga vita a tutti i Romei. Assolutamente, a tutti i gatti. E al ristorante. Grazie, Romeo. Grazie mille. Grazie a te. Ed è arrivato il momento più atteso dagli amanti della buona cucina vegan, lo spazio gastronomico di Restiamo Animali, curato dal nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni, che per questa puntata ci ha preparato una ricetta felina. E vi ricordiamo che tutte le ricette sono ascoltabili e leggibili sul nostro sito www.restiamoanimali.it. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Parlando di gatti, cosa ne dite di preparare una bella cuccia calda? No, non sto parlando di un morbido riparo per i nostri amici felini, ma della cuccia siciliana, dolce tipico che generalmente si prepara per Santa Lucia, protettrice di Siracusa. Gli ingredienti per 4 persone sono 380 g di grano cotto, 150 g di cioccolato fondente, mezzo litro di latte vegetale, va bene soia, riso, avena, eccetera, 150 g di cacao amaro in polvere, 80 g di zucca candita, 40 g di amido di mais, 100 g di zucchero di canna integrale, un cucchiaino di cannella in polvere e dei pistacchi tritati. Se permetti, io sono un veicolo di santità, tu nella pancia hai soltanto cibo messicano. I'm sticking with you, 'cause I'm made out of glue. Anything that you might do, I'm gonna do too. You held up a stagecoach in the rain, and I'm doing the same. Saw you hanging from a tree, and I made believe it was me. I'm sticking with you, 'cause I'm made out of glue. Anything that you might do, I'm gonna do too. Moon people go into the stratosphere, soldiers fighting with the Kong. But with you by my side, I can do anything. When we swing, we hang past right and wrong. Sciacquate il grano cotto con acqua tiepida, quindi lasciatelo scolare in un colino. A parte, in un tegame versate il latte vegetale, aggiungete l'amido di mais, il cacao amaro in polvere e lo zucchero di canna. Cuocete il tutto a fuoco medio, mescolando con la frusta fino a quando la crema si sarà addensata. Unite la cannella in polvere, mescolate e togliete dal fuoco. A questo punto aggiungete il grano cotto ed il cioccolato che avrete precedentemente tritato, conservandone un cucchiaio per la decorazione finale, e la zucca candita tagliata a cubetti. Mescolate bene affinché il cioccolato si fonda amalgamando il composto. Servite tiepida con della granella di pistacchio e qualche scaglia di cioccolato, oppure lasciatela riposare una notte in frigorifero coperta con la pellicola e servitela fredda. Oh, oh, I'm sticking with you. Dei pascoli è un fenomeno poco conosciuto ma drammatico, visto gli strascichi terribili che si porta dietro. Si tratta di un fenomeno che vedrebbe grandi aziende occupare vaste aree di terreni con il solo scopo di accedere ai fondi europei, pur senza garantire l'effettiva attività di pascolo degli animali. Ed è così che in Abruzzo, a Lucoli, sono state ritrovate 140 carcasse di ovini con i microchip divelti, con un gregge lasciato in alta quota a morire di stenti. E non è la prima volta che qualcosa del genere è capitato in queste zone. È scoppiato un vero e proprio caso in Abruzzo, dove si stanno registrando morie di ovini e microchip seminati sui prati. Ci sarebbe anche un insegnante, si legge sulla notizia giornale.it dell'Università dell'Aquila, alla quale è stato consigliato di cambiare progetto mentre provava a fare luce sulla mafia dei pascoli. Lucoli, dove si sta verificando tutto questo, è un comune con la più vasta area di pascolo in Italia e che fa gola appunto alla mafia dei pascoli. Pare infatti che sul terreno in questione non potevano proprio esserci ovini al pascolo, visto che secondo le norme dal 30 ottobre gli animali dovrebbero essere in stalla o recinti idonei al pascolo solo nelle ore diurne, accompagnati da pastori a seconda del numero di capi. Perciò gli animali presumibilmente sono morti di stenti, di fame e di freddo perché abbandonati. A testimoniarlo anche un ginepro rosicchiato dalle pecore in preda ai morsi della fame. Prima regola del Fight Club: non parlate mai del Fight Club. Seconda regola del Fight Club: non dovete parlare mai del Fight Club. Try this trick and spin it. Yeah. You have a collapse.